Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Soffri di mal di testa, nevralgie, cefalee, difficoltà nei rapporti umani? Non ti si mette in moto la macchina, perdi capelli? Hai il lavandino che perde? Nuoti male in piscina? Allora risolvi tutti i tuoi problemi con l'elisir del dottor Meazza. L'elisir che ti cambia la vita a soli euro 19,90. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Qui c'è del genio. Qui c'è del genio. Marco Lombardo, te lo voglio dire in diretta, è ufficiale. Lo brevettiamo. Sei geniale. Perché ripescare le sorelle bandiera fantastiche, sì, esatto. Per introdurre la notizia di oggi. Sì, e poi in epoca di distanziamento sociale, esatto. Ecco, secondo me c'è del genio. Anche Gianmarco Ferronato di là in regia, sì, che esatto, schiaccia i suoi pulsantini, muove i suoi cursorini, credo ride, che condividerà senz'altro. Ma secondo te erano nati questi due qua quando noi guardavamo in televisione le prestazioni, le performance delle sorelle bandiera? Guarda, sicuramente loro erano tra gli angioletti. Tu probabilmente anche, sì, e io no, purtroppo invece già, un angelo anziano già ero, cominciavo ero già a lavorare. Come ha lavorato bene anche il tuo coiffeur ieri, Deborah. Infatti oggi, per chi ci segue dal video, da YouTube, ipocrisia, guarda qua, regna sovrana, potrà ammirare, potrà gustare questa pettinatura, sì, di Deborah, particolarmente, sì, oggi vaporosa, sì, certo, e curata. Come sei spontaneo nel tuo commento dopo che ieri ho mandato la notizia quando ero dal parrucchiere, la fotografia, così domani vi ricordate che mi sono rifatta la chioma. Ma perché sempre siamo partite con la sorelle bandiera? Dai, sgombriamo un po' il campo da tutte le curiosità. Sì, anche perché basta dagli mettermi equivoci, in cattiva luce, il perché volevamo dare questa notizia che è interessante, devo dire. Molto. Un badge che vibra se il collega si avvicina troppo, cioè un device indossabile, si chiama, certo, Smart Proximity, e l'ha scelto la Reale Mutua Assicurazioni per garantire il distanziamento. Come funziona? Che si sente un beep, poi vibra e poi si accende anche una luce rossa perché il dispositivo segnala, il badge segnala che c'è qualcuno dei colleghi che è un po' troppo vicino a qualcun altro e quindi deve invece mantenere la distanza all'interno dell'ufficio. Non è un dispositivo che memorizzi dati personali, non è un dispositivo quindi di controllo. Sai che Deborah sulle questioni di lavoro e di utilizzo di mezzi, come dire, elettronici, digitali, bisogna sempre essere molto prudenti. Questo è soltanto un dispositivo che garantisce che si stia alla corretta distanza gli uni dagli altri. È stato consegnato a tutti i 2500 dipendenti del gruppo. L'unica azione richiesta al dipendente è quella di indossarlo sempre e di ricaricarlo quando necessario. E pensa che la compagnia assicurativa sta pensando anche di estendere l'utilizzo a consulenti e visitatori esterni. Ne scrive oggi diffusamente sulle Sole 24 Ore il nostro Antonio Larizza in un pezzo più complessivo che riguarda il tema salute e sicurezza. Nel post-Covid si moltiplicano i dispositivi per garantire la distanza e per tracciare le presenze. E noi, a proposito di presenze, il mio lo vorrei comprato da Tiffany, possibilmente, se proprio mi dovete mettere un braccialetto per che adesso chiediamo all'ufficio acquisti, ma senz'altro provvederemo senza por tempo in mezzo. Senza por tempo in mezzo, invece, e a proposito di presenze, abbiamo oggi una presenza importante. Io allora vorrei un po' sovvertire, di mi solito scombini la scaletta? Sì, scusami, però abbiamo l'opportunità di parlare con Alberto Olivetti, che è il presidente di ADEP, l'Associazione delle Casse di Previdenza Privata. Perché viene presentato oggi un report che è un po' una primizia. Benissimo, aspetta lì però, diamogli il benvenuto come si deve, facciamo lavorare anche i ragazzi che sono in regia. Parliamo di lavoro. il lavoro e anche il welfare dei lavoratori e in questo caso dei professionisti. Esattamente, e oggi infatti in videoconferenza viene presentato il primo rapporto ADEP sul welfare, quindi il welfare dedicato ai professionisti da parte delle casse di previdenza private. Innanzitutto, bentornato a Due di Denari al presidente di ADEP, Alberto Oliveti. Buongiorno. Grazie, buongiorno. L'abbiamo strappata al momento in realtà del suo evento e la ringraziamo molto per questo. Ci spiega rapidamente insomma in che consiste questo rapporto e due considerazioni sui dati più importanti che emergono. Certo, grazie. Allora, il rapporto ADEP è un rapporto che tutti i componenti delle casse privatizzate fanno sulle loro linee di attività. Le casse privatizzate devono sostanzialmente garantire previdenza, quindi la pensione post-lavorativa e l'assistenza nel caso del bisogno, della necessità. Il welfare è un qualcosa che invece noi vogliamo declinare nel sostegno anche alla componente lavorativa. È importante, soprattutto dopo la crisi e per dare un sostegno alla ripresa, ragionare sul lavoro professionale. Oggi non si può più dire a un giovane, in nome di un patto generazionale un po' datato, dammi i tuoi contributi perché per mantenere la mia post attività lavorativa, perché qualcun altro poi li darà a te, crediamo che sia un modello superato. Oggi dobbiamo andare a un sistema circolare per il quale dal lavoro e con i contributi al lavoro si sostiene una previdenza che abbia attenzione alla qualità e alla quantità del lavoro. Questa è una proposta politica precisa, Presidente. Ah, decisamente. È un sistema che non è più lineare dal lavoro alla previdenza, ma un sistema circolare. Lavoro, previdenza, lavoro. Sosteniamo con il welfare anche la fase lavorativa, la qualità del lavoro, la formazione, l'aggiornamento, le competenze e nello stesso tempo anche le crisi lavorative, i momenti in cui si perde il lavoro, i momenti in cui il lavoro deflette e va giù, i momenti in cui il lavoro lo si cambia nelle sue modalità espressive e lo sappiamo che la crisi è stata anche da questo punto di vista anche un acceleratore di impresa. A proposito, c'è un dato forse di cronaca, ci sposta un pochino ma mi permetto di chiederglielo. Noi avevamo parlato tempo fa dell'erogazione di questo, credo l'avessero chiamato reddito di ultima istanza ai professionisti. Le casse si sono fatte carico di varare questo sostegno, a proposito di welfare appunto, però se non mi sono sbagliato, ancora aspettate che il Ministero dell'Economia rifonda quanto anticipato dalle casse, o mi sbaglio? No, non si sbaglia affatto. Abbiamo erogato, anticipando il Ministero dello Stato, tre tranche da 600, 600 e 1000 euro a circa 500.000 di nostri professionisti. Ci è stata restituita solo la prima tranche, aspettiamo la seconda e la terza. Però abbiamo colmato un'iniziale discriminazione tra professionisti perché quelli iscritti alle casse inizialmente non erano coinvolti in questo fondo del reddito di ultima istanza. Tra l'altro, in corso di Covid, parlare di ultima istanza era vagamente vietatorio. Sì, è vero. Però effettivamente l'avevamo chiamato così, vero? Era uno dei primi decreti legge che aveva utilizzato questa formulazione non felicissima, ci permettiamo di dire. Anche per voi era stato, se non mi ricordo male, Presidente, prima di 600 euro, poi passato a 1000, no? Nelle erogazioni di aprile-maggio. Prima 600, seconda 600, la terza 1000. Bene, noi insomma abbiamo anticipato tutte e tre, sì. Circa 500.000, quindi il 40% dei nostri professionisti circa ne hanno fatto richiesta, noi li abbiamo anticipati come casse con le nostre liquidità, però nello stesso tempo adesso ne chiediamo la restituzione, fino adesso è stata restituita solo la prima tranche. Presidente, un altro tema sempre di attualità, lei lo sa che il risparmio previdenziale fa molto gola allo Stato perché vorrebbe dirottarlo verso l'economia reale, è un dibattito apertissimo, ne stanno discutendo apertamente e anche con grande disponibilità, se vogliamo, i fondi pensione. Le casse di previdenza dei professionisti come la pensano in questo senso? Perché so che anche lei ha un'idea molto precisa, prima che lo Stato ci venga a chiedere di trasferire le nostre risorse all'economia reale e dobbiamo ricordare allo Stato che noi abbiamo come primo impegno quello di pensare ai professionisti. È proprio un no totale o è un no a condizione che? No, parlano i fatti. I fatti ci dicono che oggi dei 96 miliardi di patrimonio delle casse, circa il 50% sta in Italia e circa il 20% investiti in economia reale. Ma dato che questi soldi sono contributi dal lavoro degli iscritti, noi dobbiamo farli rendere al meglio per poterli restituire sotto forma di prestazioni, sia post lavorative che adesso anche lavorative. Detto ciò, quindi noi dobbiamo cercare la redditività finanziaria, anche perché abbiamo un obbligo di sostenibilità di 50 anni. E avere 50 anni di sostenibilità significa, come un maratoneta, che noi a ogni chilometro, ogni anno, dobbiamo rispettare la tabella di marcia se vogliamo mantenere il tempo. Quindi non è che possiamo pensare di fare investimenti al futuro perché siamo pazienti. Noi dobbiamo essere lungimiranti e guardare quindi alla sostenibilità lunga, però anche tempestivi negli investimenti, perché alla fine di ogni anno ci devono dare quella redditività che ci permetta di mantenere la tabella di marcia. Allora, noi vogliamo sostenere l'economia reale, ma quale migliore economia reale se non quella garantita dall'esercizio dell'attività dei nostri professionisti, che sono un vero fattore, una vera leva di sviluppo e di crescita per il paese? Allora noi diciamo: la natura non fa il salto, si dice, ma nemmeno le casse professionali. Investiamo i contributi dal lavoro dei nostri iscritti nel loro lavoro, in aree prossime, nel primo cerchio concentrico vicino alla professione. Questo miglior investimento garantirà miglior qualità professionale, che avrà una ricaduta positiva sul paese. È chiaro che si chiedono invece di fare il salto e di sostenere direttamente interventi in economia reale, che perdono di vista la redditività finanziaria che dobbiamo mantenere anno per anno e la capacità di sostenere la professione. Beh, forse è una richiesta che dovrebbe essere più esercitata a chi gestisce la fiscalità generale. Fiscalità generale, sì, che peraltro per lui è avversa, perché non è una fiscalità europea. Presidente Olivetti, credo che la sua perorazione sia chiarissima, cioè disponibili, stradisponibili, anzi incentiveremo gli interventi a favore dei nostri assistiti, quindi in questo senso, e chiudiamo un po' il discorso, il welfare delle casse, cioè sostegni per la professione, sostegni per la formazione e così via, molto meno disponibili a così intervenire per salvare, che so, questa o quell'altra azienda in difficoltà, questo o quell'altro settore in difficoltà, se non c'è una prospettiva di redditività. Credo che, insomma, gliel'ho riassunto un po' così in modo brutale, giornalistico, però mi pare davvero. No, anche perché brutalmente, giornalisticamente parlando, so che le casse sono state un pochino anche tirate per la giacchetta per un possibile eventuale investimento in Autostrade per l'Italia, per cui c'è anche questa notizia che circola, un'indiscrezione che non sappiamo quanto corrisponda a verità, però insomma, come ripeto, il risparmio previdenziale fa gola da molti punti di vista, Presidente Olivetti. Non v'è dubbio. Allora, noi quando facciamo investimenti dobbiamo garantire la redditività. Nello stesso tempo però l'investimento è previdenziale, quindi non possiamo fare le corse ad investimenti astrusi, perché la finalità è conservativa e non speculativa del nostro investimento, non lo possiamo perdere di vista questo. Quindi facendo questi tipi di investimenti, se ci arrivano delle proposte che ci garantiscono redditività finanziarie buone, sostengono il nostro sistema di sostegno al welfare, garantiscono le professioni e ci danno anche una redditività tesa con una ricaduta positiva sul paese, siamo felici. È chiaro che non possiamo fare salti e avventure e quindi andare a fare investimenti speculativi di cui perdiamo il controllo, di cui verremo chiamati alla restituzione solo dopo anni, e in questo dobbiamo, come posso dire, fare il nostro mestiere. Certo. Insomma, non volete far parte del Sussidistan, come ha detto qualcuno anche di recente. Senta, Presidente, un'ultima battuta. Quanto sta crescendo il welfare delle casse? Perché sappiamo che, insomma, non tutte le casse sono allo stesso livello, esatto. Ecco, per dirla molto brevemente. Sì, è corretto questo. Le casse sono una galassia di 20 casse. E sotto c'è il sottostante dei vestiti. E chiaramente anche in epoca di crisi, ma anche prima della crisi, vuoi per la demografia avversa, vuoi per il sistema di globalizzazione, vuoi per il sistema della disruption tecnologica, ogni professione ha le sue problematiche. Detto questo, le casse quindi sono una galassia complessa, devono rispondere alle loro platee. La crisi può andare per qualcuno in un modo, per qualcuno in un altro modo, nello stesso tempo noi cerchiamo di portare avanti quei livelli comuni che ci permettono poi di garantire una sufficiente efficacia. Devo dire che Abbiamo portato i dati del 2019, è stato un anno ottimo, abbiamo aumentato i nostri patrimoni in maniera importante. Negli ultimi 8 anni i patrimoni delle casse sono aumentati di 40 miliardi, quindi alla fine il sistema funziona, non crea debito sicuramente, anzi sostiene lo Stato con una fiscalità che gli altri paesi non pagano quando gestiscono analoghe situazioni. Sì. Da questo punto di vista è chiaro, poi ogni cassa ha i problemi specifici e cerca di adattare il proprio welfare alle esigenze specifiche di cassa, cioè un giornalista ha i suoi problemi, un medico, la cassa che io rappresento, ha i suoi problemi, un ingegnere, un avvocato e via dicendo. Cerchiamo di fare solidarietà di sistema, cerchiamo di reggere insieme questo percorso di sostegno alla professione liberale, quindi all'attività professionale dei liberi professionisti, perché riteniamo che sia un motore di sviluppo e di ripresa, lo ritiene anche l'Europa peraltro, e quindi da questo punto di vista cerchiamo di gestire insieme una galassia complessa, può avere anche delle zone di nebulosa, cerchiamo di esercitarle al meglio, i numeri parlano sempre però, e quindi chiediamo di poter esercitare in autonomia il nostro ruolo, perché siamo convinti che se possiamo adattare i nostri mezzi per coordinare la nostra esigenza di sostenibilità insieme all'esigenza di sostegno, insieme all'esigenza di garantire dei ritorni efficaci pensionistici e di welfare, noi potremmo continuare a produrre valore, perché questo abbiamo fatto, sì. Produrre valore e esercitare la nostra funzione in maniera corretta e, come posso dire, anche con un consenso delle basi, perché alla fine poi abbiamo tutti dei regolamenti che ci portano a regolari elezioni e quindi cerchiamo di gestire il nostro ruolo in maniera efficace. E questo primo rapporto, insomma, che avete presentato e state presentando oggi è una segnalazione. A proposito di welfare, guarda, visto che arriva sull'intervista del presidente Olivetti, un'osservazione di un ascoltatore mi fa piacere trasferirgliela, perché magari è una riflessione che anche nel loro ambito stanno facendo, ma magari gli iscritti ad una delle varie casse, non so bene a quale Andrea si riferisca, è bene appunto che sappiano come si sta discutendo di questo. Presidente, questo ascoltatore ci dice: sarebbe corretto, giusto, che le casse potessero garantire ai loro associati l'equivalente della legge 104, sale quel provvedimento che consente a familiari di parenti, persone con disabilità, esatto, di stare a casa 2-3 giorni al mese appunto per prendersi cura di questi congiunti. È un tema al vostro ordine del giorno? Allora, la previdenza pubblica è finalizzata, è sostenuta dalla fiscalità generale. Noi invece come casse private non possiamo avere fiscalità generale. Tant'è vero che abbiamo mezzi privati in cambio della perdita della fiscalità generale, anzi noi, ahi noi, contribuiamo a questa fiscalità generale. Il problema dell'ammortizzazione sociale è una questione che viene fatta con la fiscalità generale. Noi, non avendo fiscalità, non abbiamo gli strumenti per poter garantire dei presidi che vengono opportunamente finanziati in logica collettiva. Quindi il problema della 104 è un problema di previdenza pubblica. È chiaro che se a noi venissero date, devoluta una fiscalità di scopo per garantire correttamente quello che la 104 permette ai familiari di persone con disagi, con problemi fisici e limitazioni funzionali, noi tranquillamente ce ne faremo carico, certo. Però ci vuole il finanziamento. Andrea completa la sua mail dicendo: io mi sono dovuto far carico dell'assistenza a mio figlio malato di tumore, sono iscritto ad Inarcassa. Allora conclude: sarebbe corretto anche che anche per noi venisse fuori dalla fiscalità generale, io non avevo nessun supporto equivalente a quello consentito dalla legge 104. Noi Andrea le mandiamo un bacione, dobbiamo salutare anche il presidente Olivetti, ma insomma abbiamo tirato fuori oggi tanti argomenti che abbiamo subito colto, sono nel cuore appunto dei nostri ascoltatori, e quindi magari avremo un'altra occasione per approfondirli. Lasciamo allora Alberto Olivetti, presidente di ADEP, l'associazione Cassi Previdenza Private, al suo evento. Grazie presidente, noi andiamo a un rapidissimo giornale radio del risparmio. Con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani. Fuoco, acqua, elettricità. Vabbè, questa ce l'ha rubata Pagliarini, la ridiciamo al volo, tanto per far arrabbiare gli ascoltatori. E poi, senti, siccome io venerdì non sono in onda, te ne occupi tu cortesemente a 2 di denari con un bel approfondimento. Pago io le bollette? Sì, pagale tutte tu. Ah, va bene, cara, farò senz'altro, provvederò senza meno. No, la notizia ovviamente è che vi segnaliamo, torniamo a segnalarvi che da domani, 1 ottobre, per chi sta nel mercato a maggior tutela, c'è un rincaro del 15,6% per l'elettricità, per le forniture forniture di elettricità, dell'11,4% per le forniture di gas. Secondo ARERA, in realtà alla fine del 2020, però, chi sta nel mercato di maggior tutela, quindi non al mercato libero, chi sta in questo mercato a maggior tutela avrà comunque un risparmio rispetto al 2019. Ma ne parleremo in una delle prossime puntate di Due di Denari. Molto bene, io invece volevo segnalare questa cosa, un'altra sanzione ad una società di credito al consumo arriva da parte dell'Antitrust, l'autorità garante della concorrenza del mercato, che nell'ultimo bollettino ha fatto sapere appunto di aver sanzionato per 250.000 euro questa società che si chiama Consap. Che cosa faceva nella sostanza la società? Questa pratica che conosciamo, perché insomma tante volte viene denunciata a vari livelli: abbinamento forzoso fra prodotti di finanziamento e prodotti assicurativi, per la verità risultanti non connessi al prestito. Quindi ti serve un prestito, caro Mauro, per fare qualunque cosa, la società ci abbinava forzatamente anche un'assicurazione che evidentemente però non riguardava la protezione contro l'eventuale insolvenza, l'eventuale impossibilità di ripagare questo prestito, per cui l'antitrust è voluto andare a fondo di questa pratica commerciale scorretta sanzionando la società. Quale altra notizia vogliamo dare prima di darmi la linea per i mercati? Guarda, rapidissimamente la maxi staffetta generazionale, perché mi sembra importante. A Banca Intesa è stato raggiunto un accordo con i sindacati, appunto della bancario, e c'è un accordo per 5.000 uscite volontarie incentivate con un turnover anticipato di assunzioni di giovani. Escono praticamente in 5.000, ma si aprono 2.500 posti di qui al 2023. Tutti i dettagli sul Sole 24 Ore di oggi, se ne è occupata Cristina Casadei. E allora adesso, visto che il tempo fugge e non s'arresta un'ora, come direbbe il poeta, andiamo alle borse. È una bella zuppa questi due qua. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di Denari. Parliamo di lavoro con INAPP. Come già da mercoledì scorso, i nostri ascoltatori abituali lo sanno, il nostro mercoledì del lavoro, Parliamo di lavoro, si arricchisce per un buon numero di puntate di questa collaborazione con l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Attive, delle Politiche Pubbliche, INAPP, con due P finali. Il sito è www.inap, sempre con le due P finali, .org, e Sebastiano Fad, il professor Sebastiano Fad, è il suo presidente, che abbiamo il piacere di ospitare questa mattina qui a Due di Denari. Benvenuto, professor Fad. Buongiorno, buongiorno anche a lei. Grazie. Professore, noi vogliamo discutere un po' con lei di un tema che le è caro, tanto che ieri ne ha parlato anche sul Sole 24 Ore, e cioè lo smart working, che è un po' il tema del 2020, verrebbe da dire. Sì. E innanzitutto, io so che lei è abbastanza sempre critico quando qualcuno, come ho fatto io ora, le dice: parliamo dello smart working che abbiamo fatto nel 2020, perché subito lei, diciamo, vuole precisare che forse non abbiamo fatto esattamente dello smart working. Sì, è vero questo. Anche se molti già ormai dicono, ma spesso lo ripetono come fossero pappagalli, che il telelavoro non è lo smart working, e poi però non traggono le conseguenze, è vero che c'è stata questa confusione. In realtà ciò che si è avuto nel periodo del lockdown è stato un semplice trasferimento delle mansioni che prima venivano svolte in presenza, un trasferimento a domicilio. Ecco, quindi noi stessi abbiamo fatto come INAPP delle indagini sulla telelavorabilità di certe professioni, cioè la possibilità di trasferire a domicilio l'esecuzione di mansioni che prima venivano svolte in presenza. Ma questo non coinvolge minimamente